Noi ospitiamo ogni anno per due volte anzi all'anno, quindi ogni semestre, circa 60-70 ragazzi che vengono da tutto il mondo, giovani musicisti appartenenti a tutte le culture che provengono dalle più grandi università, accademie e conservatori. Questo progetto è nato un giorno particolare, perché è nato il 15 settembre del 2001, appena 4 giorni dopo la grave e terribile tragedia americana, e è stato per noi un segnale. Siamo comunque riusciti a mandare in porto questo progetto, a far venire appunto 4 giorni dopo quello che è successo i 60 ragazzi da tutto il mondo. Questo è una nostra volontà di rappresentare attraverso la musica una testimonianza, una nuova testimonianza di fratellanza. In fondo la musica è un linguaggio universale, è un linguaggio che accomuna tutti, e nella ricerca di una così di un linguaggio comune tentiamo di trovare la maniera nel rintracciare una nuova fratellanza possibile. Noi siamo praticamente in giro in tutto il Medio Oriente, o insomma nei paesi più importanti dal punto di vista anche purtroppo drammatico di questi ultimi tempi. Saremo quindi a Tel Aviv, a Gerusalemme, a Ramallah e ad Amman. Abbiamo inteso raccogliere l'invito della Corona proprio per testimoniare che la possibilità di coinvolgere anche il mondo arabo in un processo di pacificazione dell'intero territorio è sicuramente un qualcosa di molto importante. E anche per questo, per coinvolgere ancora di più la cultura ebraico-araba, che abbiamo scritto un programma musicale andando a ritrovare le antiche radici della musica popolare mediterranea e ritrascrivendole per i nostri strumenti moderni. Questo è un contributo che vogliamo proprio portare alla cultura orientale.